Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, quarta giornata di campionato. Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia, squadra al completo per raccontarvi una giornata che intanto una capolista ce l'ha regalata, un'altra ce la regalerà fra poco, perché Bologna e Varese sono in campo da pochi istanti. Intanto sorride Sassari, che vince dopo un tempo supplementare 93-92 sul Taliercio, sul campo Taliercio di Venezia, una Venezia che è tornata a casa e che ha fatto sudare i sardi, ed una giornata che poi domani ci regalerà anche, oltre al big match di stasera, il big match metropolitano per eccellenza, Milano contro Roma. E allora, menù ricco, partiamo subito dai risultati di questa quarta di Serie A, con la Montepaschi Siena che vince, sì, ma a fatica, contro la Scavolini Banca Marche Pesaro 65-60, che bolletta Cantù è nel Brindisi 84-80, vincono quindi anche i canturini. Dicevamo di Sassari che passa sul campo dell'Umana Reyer Venezia 93-92, il successo del Banco di Sardegna. Vanoli Cremona, Sidiga Savellino 94-83, primo successo per Cremona. Juve Caserta batte Sutor Montegranaro 78-67. Trenk Walter, Reggio Emilia batte Angelico Biella 85-56, per una classifica che vede Sassari in testa momentaneamente da sola ad 8 punti, Varese Bologna ancora chiaramente a 6 in attesa del risultato del big match. Fra qua pochissimo andremo anche a Bologna, raggiunte anche da Siena e Cantù a quota 6, Pesaro, Roma e Caserta 4, a 2 punti Montegranaro, Milano, Avellino, Brindisi, Venezia, Reggio Emilia e Cremona, non c'è più nessuna squadra al palo a 0 punti, segno ulteriore del grande equilibrio che regna quest'anno. E allora partiamo subito dai campi, collegamenti subito a Siena con Massimo Sollazzini. Massimo, raccontaci un po' questo sofferto successo di Siena, so anche che hai un ospite al tuo microfono. Sì, infatti con noi coach dei Pesaro Giampiero Ticchi, che ringraziamo intanto per la disponibilità. Come lo raccontiamo? Questo finale che è un po' ricapovolto la china di una partita che sembrava avviato verso un'affermazione della vostra squadra qua. Il primo tempo, che ha fatto un ottimo primo tempo, in cui forse il vantaggio di 9 punti non era sufficiente per la qualità del gioco che abbiamo dimostrato, e poi chiaramente Siena è venuta fuori per tutte le sue qualità. Noi siamo stati bravi a resistere tutto il terzo quarto e parte del quarto quarto, e poi dopo è venuto fuori il grande Siena e noi non ce l'abbiamo più fatta. Chiaramente ci è mancata lucidità, ci è mancata quella pizzico di esperienza, quelle piccole cose che erano determinanti, perché in alcuni momenti forse bastava una palla vagante, un rimbalzo in più, un canestro fatto che poteva cambiare l'inerzia della partita, che nel quarto quarto era tutto in mano di Siena. La sconfitta dispiace, però abbiamo giocato contro il campione d'Italia, che avevano mille motivazioni per giocare questa partita, e noi abbiamo affrontata a viso aperto con grande personalità. Due squadre assimilate nel percorso in questa gara, anche per esempio dalla bassissima percentuale di tiro e anche dallo smarrimento. Siena l'ha avuto nel secondo quarto, Pesaro se vogliamo proprio nel quarto, e poi fatale. Sì, noi alla fine forse ci è mancato un po' di energia, di lucidità, non siamo più riusciti a muovere la palla come di solito facciamo, e a quel punto Siena è riuscita a imporre la sua potenza, la sua forza, e noi ci siamo un po' spenti e ci siamo forse anche un po' demoralizzati. Non vi portate 2 punti, ma cosa vi portate di buono a casa stasera? Di buono, la tristezza non è una cosa buona, la delusione neanche. Se finiva la partita al primo tempo ci portavamo a casa 2 punti, grande qualità. Adesso sapere che abbiamo giocato con grande personalità, diciamo questo. Dario? Grazie, grazie a coach Tichi, a Massimo Sollazzini, su col morale coach, perché comunque Pesaro sta facendo molto bene anche in questa versione profondamente rinnovata a partire dal suo allenatore. E allora lasciamo Siena per spostarci a Venezia, andiamo a vedere un po' il tabellino di questa sfida emozionantissima tra Umana Reyer e Banco di Sardegna, 92-93 per i sardi che completano la rimonta nel quarto periodo, che vincono per 19-11 e poi nel super vincono appunto per un solo punto di distacco. Tabellini per quanto riguarda i veneziani, 23 punti di Clark con 18 di valutazione, 6 su 9 da 2, 3 su 8 da 3, 10 punti per Bulleri, 17 5 rimbalzi per Diawara, 13 i punti sotto canestro con Eric Williams che paga però un 1 su 6 pessimo ai tiri liberi e alla fine decisivo. Per quanto riguarda invece Sassari, 21 punti di Buzzi Thornton con 3 su 7 da 3, altrettanti di Gnieschi con la stessa percentuale nelle triple, poi 16 punti per Drake Diner e 18 e 8 assist per Travis Diner, ancora una volta e i due cugini si fanno sentire a referto. Allora, ve l'avevo promesso, saremmo andati a Bologna per seguire con qualche flash come sta andando il big match di giornata tra Bologna e Varese. Ben trovato Stefano Valenti. Allora, atmosfera, punteggio, raccontaci un po' di questa sfida, Stefano. Buonasera. Sì, buonasera. Da capo di Bologna uscirà la compagna di Sassari in vetta alla classifica. Bologna e Varese ancora imbattute. Dopo 5 minuti del primo quarto, il punteggio di 11-9 per la Cimmerio, che ha già 5 punti da Iri, che è il migliore giocatore del campionato. E lo scenario è bello perché tutti venduti in 9.200 biglietti dell'arena, non tutti pieni ad essere onesti, però insomma siamo poco sotto quello che ha fatto Gianni Sarlopez qualche giorno fa nello stesso luogo, quindi qui il basket sicuramente è ancora un bel traino. Bologna senza Steven Smith, che è volato in America per assistere alla nascita dei suoi gemelli, la società ha capito e compreso, quindi gioca Gabbeforth nel ruolo di alaforte, un'idea che Finelli ha dovuto gioca forza avere, ma fin qui il giovane svedese sta tenendo assolutamente il suo ruolo. 4:30 da giocare, nel punteggio non è accaduto nulla, 11 Varese, 9 Bologna, a voi. Benissimo Stefano, resta lì che ti chiamiamo ogni tanto in causa, così lo seguiamo dal vivo questo match. Andiamo intanto a vedere il tabellino della vittoria sofferta anche questa di Cantù, della Che Bolletta Cantù sull'Enel Brindisi, 84-80. Vedete, le grandi soffrono sia nella versione rinnovata come quella di Siena, sia anche in quella aggiornata 2.0 di Cantù di quest'anno. Tabellino dei canturini, 11 punti per Marco Svili, 12 per Mazzarino, una Cantù che ha tirato quasi col 66% da 2, percentuale straordinaria, 13 per Taius più 7 rimbalzi, 6 su 9 da 2, comincia a sbagliare i primi tiri in campionato e questa è una notizia, 18 punti per Jonathan Tabu e 14 per Pietro Aradori, che piazza anche un 5 su 6 eccellente da 2 punti. Per quanto riguarda Brindisi fa quasi tutto Scotty Reynolds, 33 punti in 37 minuti, 27 di valutazioni, 10 su 15 da 2, 4 su 6 da 3, anche due rimbalzi, una persa, una recuperata e un assist. Ci mettono 14 punti anche Jonathan Gibson e 12 Grant, ma non bastano per il successo di Brindisi a Cantù, che non riesce vista la vittoria dei padroni di casa. Allora andiamo subito a Caserta con Carmelo Presti Simone, successo della Juve Caserta. Carmelo, dici tutto sulla Sutor Montegranaro 78-67. Esatto Dario, buonasera, ben trovati qui da Caserta, da Castelmorrone. Juve Caserta che batte la Sutor Montegranaro 78-67, un successo importante. Io sono con Marco Mordente, che è stato oggi il condottiero della squadra campana, ha preso per mano la squadra nel momento in cui Stefano Gentile ha dovuto lasciare il campo per falli e insomma è entrato Marco Mordente, insomma la situazione si è un po' ristabilita. Marco, un successo importante, Caserta sa vincere le partite giuste, è così? Per ora abbiamo vinto due partite in casa che sono importanti, è anche vero che quando giochi in casa davanti a questo pubblico qui diventa pochettino tutto facile. Venivamo da una sconfitta un po' troppo pesante, siamo riusciti a cambiare l'inerzia già in settimana allenandoci bene e poi soprattutto trasferendo in campo quello che avevamo fatto durante la settimana di lavoro. Quali possono essere, ecco, secondo te adesso gli obiettivi di questa squadra che, diciamo così, è partita assolutamente per salvarsi, si può ambire secondo te a qualcosina di più? No, io poi per carattere sono sempre uno che, come si dice, rimane al piede per terra. No, assolutamente, dobbiamo anche come gruppo secondo me continuare a rimanere con la testa bassa, perché l'umiltà è la base di tutto, quindi non pensare assolutamente a nulla se non semplicemente a lavorare e provarle a vincere tutte, ma prima di tutto per salvarsi, perché le altre squadre ce ne sono tante, buone, con tanto talento, un campionato strano. Abbiamo visto che Venezia, che è una delle migliori squadre in Italia, ha perso in casa con Sassari. Tante cose possono succedere, quindi rimaniamo, come si dice, fly down, no? Belli schisci. Dario, diamo anche una notizia, perché Caserta settimana scorsa ha tagliato Nick Wise, il playmaker, e dovrebbe prendere, molto vicino a prendere, Brian Chase. Chiediamo a Marco anche un rapidissimo commento, che cosa cambia negli esterni, ecco? Commento che io non so di questa situazione, perché comunque non se ne è mai parlato in squadra, non se ne parla in società, quindi probabilmente questa è una voce che sai tu. E quindi abbiamo dato una notizia anche a Marco Mordente, Carmelo. Esatto, bravo. Sì, ecco, questo è lo scoop, e quindi faremo assolutamente un'agenzia. Allora, intanto ringrazio... Devi pagare questo scoop. Sì. Beh, da dopo nel fuori onda ci mettiamo d'accordo, Marco, sul prezzo. Assolutamente. Cosa cambia? Non cambia nulla, perché alla fine si torna a quell'equilibrio che c'è stato fino alla settimana scorsa, quando Nick Wise era con noi. Dario, ringrazio Marco Mordenti, a te, se non hai domande. E io ringrazio te, lo so che stai cercando di far di tutto per entrare nel roster di Caserta, metti anche in giro queste voci, caro Carmelo, ma insomma benissimo lo scoop e il prestigiosissimo ospite. Allora, adesso ci prendiamo una pausa per il traffico, poi torniamo con commenti, collegamenti, insomma ci abbiamo ancora tanto da dirci qui a proposito di basket. Palla spicchi. Ancora insieme per questa seconda parte di Palla Spicchi. Torniamo subito a Bologna per un rapidissimo aggiornamento su Bologna-Varese. Stefano Valenti. Bologna 27 al termine del primo quarto, Varese trova la lungo, 21 per la Cimeglio, 11 per 6 e 3 Bologna, abbiamo la lungo firmato dagli italiani, il colorato ha trovato Di Nicolato del triplo, che il preleca gli ha messo, successivamente ha rubato ancora un pallone sull'estero, quindi a colore questi 10 punti di vantaggio per la Cimeglio. Con Grillo, ma sbaglia 1,23 da giocare, più 10 Varese. Grazie a Stefano Valenti. Rapidissimamente, risultati di Lega 2 con Veroli che perde in casa con Trento 56-74, Trieste Ferentino 84-79, Napoli Imola 72-73, Casale Monferrato Capo d'Orlando 101-71, Iesi Bologna 87-90, Barcellona Forlì 92-94, Pistoia Verona 67-51, Scafati Brescia 86-88. Andiamo subito ai commenti di giornata. Ben trovato Carlo Genta. Ciao Dario, buonasera a tutti. Allora Carlo, partita al Tagliercio infuocata e Sassari che al momento è capolista solitaria, quel che conta di più sono le quattro vittorie, percorso ancora netto, no, per i sardi. Sì, intanto Venezia tornava a casa non nel modo migliore, però Sassari è qualcosa di serio, così come le due che prima sentivo Stefano Valenti commentare dal sì, campo, la sto guardando anche in questa partita, c'è Varese che sta giocando veramente una grande pallacanestro, Bologna in difficoltà, ma sono due squadre estremamente giovani, interessanti, che propongono anche americani nuovi con voglia di Eurolega, insomma sono, mi sembrano squadre ovviamente non in grado di puntare al titolo, che non si sa bene ancora chi potrà puntare a questo titolo, oggi come oggi, però certamente si respira qualcosa di nuovo, secondo me, Dario. Sì, e poi è anche vero che, come dicevamo in vigilia di campionato, forse anche figli della crisi, questi roster sono stati costruiti con un po' più di curiosità e di fantasia, no? Certamente, altro tema è quello di un'Eurolega che si paga soprattutto per squadre in costruzione come Siena e come Cantù. Abbiamo visto oggi vittorie con margini molto ridotti, abbiamo visto Avellino che la settimana scorsa aveva distrutto Milano e che oggi ha perso a Cremona. Queste tre sono squadre in costruzione ed è difficile secondo me costruire avendo così tanti impegni ravvicinati, quindi secondo me giudizio abbastanza sospeso per queste tre squadre destinate ad alti e bassi sia in Eurolega che in campionato almeno per un paio di mesi. Dario, assolutamente, cantieri ancora aperti. Carlo, ti ritroviamo domani alle 14 in tutti i convocati, domani, no? Domani alle 14 naturalmente. Ah, benissimo, siamo già sintonizzati. Grazie Flavio Tranquillo per il gran finale di questa puntata di oggi, ben trovato Flavio. Ti chiedo subito, non abbiamo più squadre al palo a zero punti, vorrà dir poco, però se quel poco forse è che effettivamente quest'anno si procede, e anche i numeri ce lo confermano, all'insegna di un equilibrio ancora tutto forse da leggere. Ancora più equilibrio degli anni scorsi, basta semplicemente ricordare che Siena è almeno per quello che è l'analisi finora una squadra normale che sicuramente ne vincerà più di quante ne perderà, ma ne perderà più delle 0-1 che normalmente aveva perso nelle ultime 4-5 regular season in cui già c'era stato tanto equilibrio. Uno sguardo su quello che domani sarà Milano-Roma, sfida metropolitana sempre suggestiva, e cosa può dire questa partita, questo Monday Night? La sfida metropolitana è suggestiva, però diciamo nell'83 la sfida metropolitana con 15.000 qui e 15.000 là in finale aveva un altro tipo di suggestione. Quella di domani, mi auguro di sbagliarmi, sarà diversa da molti punti di vista per quello che riguarda l'impatto mediatico, diciamo così, per usare questo giro di parole. In campo è una squadra con un roster molto più lungo e molto più potente dell'altra, però l'altra non ha niente da perdere ed è una squadra che per quello che si è visto finora può ambire a quelle posizioni, diciamo quarta, quinta, sesta, settima, ottava, che ti fanno arrivare ai playoff. Senti, Monday Night ormai da un paio di giornate, poi domenica si torna a giocare anche alle 12.30, è un basket che cerca di infilarsi nelle intercapedini di palinsesti, non è che poi a pagare però sarà il pubblico dei palazzetti? Io non sono in condizione di farti dei pronostici su questo perché non ne ho la possibilità. Diciamo in termini generali non mi sembra tanto una questione di a che ora, quando e in che giorno, ma mi sembra soprattutto una questione di come. Uno, due, prima hai parlato di squadre che fanno fatica a fare l'Eurolega e il campionato insieme. Io penso che sia totalmente anacronistico pensare che ci siano squadre che giocano il giovedì o il venerdì, che sia col Panathinaikos e poi che giochino in campionato e poi rigiochino col Panathinaikos e poi ancora in campionato. Questa è una cosa anacronistica. Quelle che fanno il campionato devono fare il campionato, quelle che hanno una dimensione europea devono avere una dimensione europea, io la penso così. Quindi insomma, parole che fanno ipotizzare e sognare o auspicare una Superlega. Staremo a vedere, Flavio, che direzione prenderà il basket europeo, se questa pulsione verrà in qualche modo accontentata. Grazie a Flavio Tranquillo, grazie a Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. 15-25 il primo quarto tra Bologna e Varese. Io resto qui che vi racconto anche un po' di calcio fra poco.